Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. All'Italia il ministro Calenda contro l'azienda: è stata gestita male, le colpe non ricadano sui lavoratori, i sindacati chiedono un incontro subito con l'esecutivo. Il picco di influenza, il freddo, la paura della meningite mettono in crisi ospedali e presidi medici, carenza di sangue e molti pronto soccorso presi d'assalto. Rogo in un capannone occupato da migranti a Sesto Fiorentino, una vittima, ora si cerca di trovare posto alle 80 persone che ci vivevano dentro. Nel solo Veneto 3.000 gli insegnanti assegnati che poi sono tornati a casa, in gran parte al sud, malati, in permesso o aspettativa, decine di migliaia in tutto il nord. Differenza di salario, la Germania tenta la carta della trasparenza, il governo pensa di permettere alle donne di conoscere lo stipendio dei pari grado uomini. Ancora un record per i biglietti del cinema a 2 euro, ieri sono stati staccati oltre 1.100.000 tagliandi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura, dunque, parliamo di Alitalia. Una situazione gestita oggettivamente male, ma le colpe non possono ricadere sui lavoratori. Dura bacchettata del ministro dello sviluppo Carlo Calenda ai vertici della ex compagnia di bandiera, azienda che nel 2016 ha perso almeno 500.000 di euro al giorno. Non esiste che si parli di esuberi prima di parlare di piano industriale, ha detto poi Calenda in un'intervista radiofonica, ribadendo dunque, ma con toni ancora più vigorosi, nell'incontro di lunedì al ministero con il management della compagnia e gli azionisti. In quell'occasione il governo ha chiesto ad Alitalia di presentare entro le prossime settimane un piano industriale dettagliato, condiviso dagli azionisti, dalle banche e dalle istituzioni finanziarie e creditrici. Su questo starebbero lavorando i vertici. L'ipotesi è quella di chiudere, se necessario, alcune tratte fortemente in perdita e ampliare l'offerta su lungo raggio e rimodulare alcuni accordi di partnership. Si parla di vari esuberi, ma le cifre ancora ballano. Intanto i sindacati hanno formalmente aperto la vertenza, chiedono un incontro urgente al governo e si preparano ad un'eventuale mobilitazione a febbraio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il giorno dopo la decisione della Consulta in merito ai referendum sul Jobs Act, si ragiona sulle modifiche al sistema dei voucher. Si voteranno tra il 15 aprile e il 15 giugno i referendum sul lavoro voluti dalla CGIL. I quesiti saranno soltanto due, uno sui voucher, l'altro sugli appalti. Non ci sarà invece quello sull'articolo 18 bocciato ieri dai giudici della Consulta, una decisione che salva il cuore del Jobs Act. La maggioranza tira un sospiro di sollievo, così come il governo, che ribadisce l'intenzione di modificare le norme sui voucher. Non sarà un intervento di facciata fatto solo per evitare il referendum, vogliamo riportare i buoni per il lavoro discontinuo alle finalità originarie ed impedirne un uso distorto, assicura il ministro del Lavoro Poletti, mentre quello delle attività produttive Calenda invita a non fare battaglie ideologiche sui referendum dichiarati ammissibili. A chiedere di riportare i voucher a come erano nati è anche la CISL. I voucher vanno aboliti, insiste invece la CGIL, che dopo la bocciatura del referendum sull'articolo 18 ora non esclude un ricorso alla Corte europea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo agli aggiornamenti sul cosiddetto cyberspionaggio. Si scava ancora, si cerca ancora di capire quante informazioni fossero state raccolte e a chi fossero dirette. Il punto di oggi con Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, Simone, queste sono proprio le direzioni ora dell'inchiesta: identificare eventuali ispiratori e beneficiari dell'operazione di cyberspionaggio e dall'altra parte ricostruire la rete che possa aver aiutato i due fratelli Occhio Nero a portare a termine la poderosa azione di infiltrazione negli account di 18.000 persone, comprese i vertici delle istituzioni e della politica. Va in questa direzione la fase 2 dell'inchiesta della Procura di Roma dopo l'arresto dell'ingegnere nucleare, mago della finanza, e della sorella maratoneta, che ora dal carcere dice di non saper neanche usare i PC. La vera svolta dell'indagine la darà la decriptazione del contenuto dei server americani, di cui ieri Occhio Nero nell'interrogatorio di garanzia non ha però voluto fornire le password. In attesa che investigatori italiani e FBI entrino in questo enorme archivio informatico, che potrà anche svelare la profondità e la riservatezza delle informazioni carpite, quindi forse dire qualcosa in più dei loro eventuali destinatari finali, c'è un altro sospetto che agita in queste ore il mondo delle forze dell'ordine e anche degli apparati di intelligence, che cioè ci possa essere stato qualcuno all'interno di questi apparati che possa aver aiutato i due dando informazioni sull'inchiesta e chissà per quale altro tornaconto cercare cercare di usare quelle informazioni. Un agente della Polizia Stradale di Salerno è stato indagato proprio per questo, ma il sospetto degli inquirenti romani è che non sia il solo e che dunque questa inchiesta possa riservare ancora delle sorprese. Simone. E grazie dunque a Raffaella Calandra anche per questo aggiornamento. Siamo al caso del duplice omicidio di Ferrara. In realtà tutto quello che c'era da capire si era già capito ieri e lo raccontavamo proprio in questi minuti. Certo, oggi i giornali sono pieni di particolari su quanti colpi d'ascia sono stati inferti, su chi li abbia inferti. E poi c'è la questione dei 1.000 euro che il sedicenne avrebbe promesso all'amico perché uccidesse i suoi genitori. Lui da solo non ce la faceva, ma non ne poteva più di sentire quella madre brontolona. A questo punto noi a Radio 24 abbiamo deciso di fermarci. Il diritto di cronaca non ha più ragion d'essere, siamo di fronte all'azione di due minorenni. Dunque caliamo il sipario su questa vicenda e lasciamo lavorare chi possa essere in grado di aiutare questi due ragazzi a rendersi conto di cosa hanno fatto. Stamattina peraltro anche Fiorello, dall'Edicola Fiore, ha parlato di questo tema, in particolare ha parlato di TV, il mezzo che conosce meglio, e ha fatto un appello a chi le gestisce a tutela degli spettatori più fragili, anziani e bambini, e anche per evitare l'effetto emulazione. Basta cronaca nera in TV a tutte le ore, ha detto Fiorello. Ci vuole un codice. Divieto di parlare di cronaca nera se non nei telegiornali. E faranno vedere l'ascia insanguinata, e faranno vedere la bottiglia dell'acido, e ci faranno vedere lo strazio dei genitori. Basta. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca. Degli ignoti sono entrati nella notte negli uffici amministrativi dell'ospedale di Nola, rovistando in alcune stanze. Sarebbero entrati da una finestra dell'ufficio del direttore sanitario, che è stato sospeso nei giorni scorsi, lo ricorderete, a seguito delle immagini di due utenti del pronto soccorso adagiati sul pavimento per mancanza di barelle. Non è ancora chiaro se dall'ufficio manchi qualcosa. Intanto il freddo e il picco di influenza creano problemi proprio negli ospedali, c'è soprattutto carenza di sangue. L'emergenza per la carenza di sangue è cronica, ma sia le difficili condizioni meteorologiche che il picco di epidemia influenzale stanno rendendo impossibile a molti donatori recarsi nei centri trasfusionali, tanto da indurre il Centro Nazionale Sangue a lanciare un appello. In particolare, in questo momento è il Lazio la regione con le maggiori carenze, ma situazioni critiche si registrano anche in Abruzzo, Toscana, Campania, Basilicata, Liguria, Umbria, Marche e Puglia. Sono oltre 2.600 le unità di globuli rossi mancanti e la carenza di sangue può mettere a rischio l'esecuzione di interventi chirurgici e di terapie per pazienti con malattie come la talassemia che necessitano di continue trasfusioni. In diverse regioni gli appelli a donare sono stati fatti direttamente da presidenti e assessori. In Puglia il presidente Emiliano ha scritto: voglio davvero chiedere a tutti quelli che possono arrivare ai centri di raccolta sangue di farlo rapidamente. Un appello simile è arrivato anche dal presidente della Basilicata Marco Pittella e oggi si è unita anche l'Umbria che sconta un calo preoccupante di donatori. In Toscana l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi rinnova tutti il suo appello a compiere questo gesto di solidarietà. Situazione difficile però anche in Lombardia, dove sono rimaste solo le scorte d'emergenza e gli ospedali sono invitati ad usarle con prudenza, rinviando gli interventi non urgenti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Situazione, come avete sentito, dettata anche e dovuta anche al grande freddo che c'è stato, soprattutto in Puglia, nelle regioni del sud colpite dalle gelate di queste ore. Migliorano intanto le condizioni meteo, ma neve e ghiaccio hanno fatto strage in campagna. Agricoltori e allevatori pugliesi fanno la conta dei danni mentre aspettano una convocazione che non arriva, lo dice Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, intervistato da Laura Bettini. Abbiamo un calo drastico della produzione lattiero-casearia, la moria di molti vitelli a causa del freddo, e poi abbiamo una situazione grave sulla questione degli ortaggi, e poi abbiamo anche una situazione tutta da verificare sulla partita degli agrumi, e poi abbiamo un'altra situazione che si è venuta a verificare su alcune aziende, sui tendoni di uva da tavola, dove ancora non erano stati ritirati i teli che sono crollati. Stiamo cercando di far passare il messaggio che quello che serve di fare le cose che servono. Abbiamo detto meno post, meno fotografie, cioè ci serve veramente che adesso arrivi la telefonata della convocazione del tavolo, dove si dice al nostro allevatore che può andare a comprare due travi e due colonne e poter rimettere sulla propria stalla come lo deve fare. E purtroppo questa telefonata in queste ore non sta arrivando. Questa è la cosa che ci preoccupa e sulla quale stiamo lavorando. All'estero adesso andiamo in Afghanistan. Completate le indagini, l'US4 certifica che ad uccidere 33 civili a Kunduz il 2-3 novembre scorso durante un bombardamento sono stati gli americani nel corso di un'operazione congiunta con le forze afghane. Nel testo, a chiusura dell'inchiesta interna dell'esercito americano, si legge: le forze statunitensi hanno risposto per autodifesa al fuoco dei talibani che utilizzavano abitazioni civili per sparare. A prescindere dalle circostanze, ha poi dichiarato alla stampa il comandante del contingente americano, il generale John Nicholson: mi rammarico profondamente per la perdita di vite umane. Tra i morti di quell'attacco, donne, uomini e molti bambini. 27 le persone che vennero ferite. Esattamente un mese prima, sempre nel cuore della notte, vi fu un altro tragico bombardamento da parte delle forze dell'Alleanza che colpì l'ospedale di Medici Senza Frontiere, sempre a Kunduz. Nel raid furono uccise almeno 9 persone, ma decine furono i dispersi. Il Telegraph parlò di 50 morti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Germania si tenta la carta della trasparenza per ridurre il divario retributivo tra donne e uomini. Nell'Unione Europea le donne guadagnano in media il 16% in meno degli uomini, in Germania il 21%. Si chiama divario retributivo non corretto, cioè che non tiene conto di grado di istruzione o tipo di attività. È il dato aggregato che serve a capire quanto una società valorizza il lavoro femminile. Erodere quel 21% è quel che si propone il governo federale tedesco, che ha approvato un disegno di legge in cui si prevede l'obbligo per le aziende con più di 200 dipendenti di render nota la retribuzione media e gli eventuali benefit goduti da uomini e donne pari livello. In Germania, comunque, le retribuzioni di maschi e femmine con lavori simili e posizioni paragonabili hanno disparità consistenti, ma meno rilevanti, la media del 7%. Il problema tedesco, ma non solo, è che le donne svolgono ancora in gran parte lavori a basso salario, poco qualificati o in part-time, per poter lavorare a tempo pieno a casa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Qualche altra notizia che arriva dalla Germania in particolare: il PIL tedesco è cresciuto dell'1,9% nel 2016 dopo il più 1,7% del 2015 e il ritmo di crescita più forte da 5 anni a questa parte è superiore alle attese degli economisti che puntavano su un più 1,8%. Il dato è stato fornito dall'Istituto Federale di Statistica. Ci sono i dati anche diffusi oggi dall'Istat sulla produzione industriale, che è superiore alle attese, è cresciuto in novembre 2016 dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 3,2% rispetto a novembre del 2015, nei dati che sono già corretti per effetti di calendario. In chiusura, una notizia che riguarda il cinema e che riguarda Cinema Today, l'iniziativa lanciata dal Ministero per i beni e le attività culturali con Anica, Anem e Anec, con i film a 2 euro ogni secondo mercoledì del mese. Ieri nelle circa 3.000 sale aderenti sono stati staccati 1.130.000 biglietti, è il miglior risultato per la promozione che era stata lanciata a settembre 2016. Un grande successo, commenta il Ministro della Cultura Dario Franceschi, nella dimostrazione che gli italiani stanno tornando a vivere la magia della sala. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E inizieremo anche oggi dal Veneto, per parlare però di scuola. Ha fatto molto discutere nelle scorse ore la lettera mandata dall'insegnante, dalla dirigente scolastica di una scuola che si lamentava perché il professore entrato in ruolo grazie appunto al concorso e che proveniva dal sud è stato in aspettativa sostanzialmente dall'inizio dell'anno scolastico, poi è tornato, ha firmato per rientrare e si è rimesso immediatamente subito dopo in aspettativa. Che cosa è successo? Che i ragazzini che avevano trovato una buona supplente sono stati costretti a cambiare insegnante. Non è il solo caso. Nel solo Veneto si contano 3.000 casi di questo genere. Ne parleremo con un dirigente scolastico che sta affrontando il problema e ne ha parlato anche col ministro dell'istruzione. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Alitalia, delle parole del ministro Calenda, abbiamo parlato del picco di influenza e del freddo che creano problemi negli ospedali, soprattutto per quanto riguarda la carenza di sangue. Siamo tornati sul delitto di Ferrari, ci siamo occupati anche delle differenze di salario in Germania e delle proposte del governo su questo fronte. Adesso iniziamo il il nostro giro per l'Italia. Andiamo innanzitutto a Bassano del Grappa, in Veneto. Saluto Gianni Zen, che è il dirigente scolastico del liceo Brocchi di Bassano del Grappa, appunto. Buongiorno Zen, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, peschiamo tutto dall'edizione veneta del Corriere della Sera. Dopo la vicenda, come vi dicevo poco fa, di quella dirigente scolastica che ha scritto una lettera scagliandosi contro un suo professore entrato in ruolo, che è stato in aspettativa per 3 mesi, dopodiché è tornato, ha firmato la presenza per un giorno, dopodiché se n'è andato di nuovo. È un problema annoso, riguarda molti professori che vengono dal sud, che accettano l'inserimento in ruolo, firmano il contratto, dopodiché la vita al nord costa troppo, firmano aspettativa e se ne tornano nel mezzogiorno, lasciando ovviamente i ragazzi a fare giri di supplenti pazzeschi. In particolare questi ragazzi, dato che il professore è rientrato e ha firmato, avevano avuto una supplente molto brava nei primi 3 mesi e adesso devono cambiare. È supplente. Preside, lei vive lo stesso problema, una delle persone che vive lo stesso problema, no? Certo, certo. No, non è il primo caso e temo che non sia nemmeno l'ultimo. Sì, e da voi come vanno le cose? Perché da quel che ho capito lei ne ha parlato anche con la stessa ministra dell'istruzione, no? Ieri ho avuto modo di parlare con la ministra e devo dire che l'ho trovata molto sensibile, attenta e concreta, nel senso che sa benissimo come stanno le cose, perché le hanno un po' spiegato dopo l'uscita sulla pagina del Corriere della preside Nadia Vidal di Padova. Ed è una vicenda, le ho ripetuto, che purtroppo da anni succede. In questo caso è legato a un utilizzo, diremo, della legge 104, che consente e prevede la possibilità dell'aspettativa. Questo possibilità dell'aspettativa con stipendio in questo caso? Con stipendio, la possibilità però... E la cosa che ha fatto arrabbiare è la decisione di questo professore di svincolarsi dalla aspettativa il 23 di dicembre, presentandosi a scuola e riprendendo l'aspettativa il 9 di gennaio, cosa che è prevista dalla normativa, ma che moralmente ovviamente è una cosa... Sì, non, direi decisamente che moralmente non è un granché. Senta, preside, succede anche nella sua di scuola, immagino, questa cosa qua, le è capitato? È successo anche a me, nel senso che ho avuto un insegnante che ha presentato la stessa trafila, la stessa richiesta, con la possibilità di ritornare in aspettativa il 9 di gennaio e quindi di fatto togliendo alla supplente la possibilità di avere lo stipendio durante il periodo di Natale. Ricordo che le vacanze di Natale non sono vacanze per i docenti, ma solo per gli studenti, mentre i docenti sono tutti in servizio. E in quanto in servizio devono essere a disposizione della scuola. E certo, lei tra l'altro ha chiesto a questo professore e a questo docente di fatto di tornare in servizio e ha ricevuto una diffida del sindacato, ho capito bene? Penso che io, perché lui è di una regione del sud, neanche presentato a scuola. Non sei nemmeno presentato, chi deve presentarsi? Allora aspetti Zen, la fermo perché io questa roba la voglio riprendere, perché poi già ci iniziano a scrivere gli ascoltatori. Anzi, se avete presenti situazioni di questo genere, cioè effetto giorno @radio24.it, ci scrivete, ci raccontate le vostre storie, sia che siate dei genitori, sia che siate dei docenti, sia che siate dei dirigenti scolastici. Proviamo a recuperare una linea decente con Gianni Zen, preside del liceo Brocchi Bassano del Grappa, e intanto ci spostiamo a Napoli. Abbiamo parlato dei problemi che stanno generando in queste ore l'influenza e il freddo per gli ospedali dal lato del sangue. Non c'è solamente quello, l'area napoletana è tornata in evidenza dal punto di vista sanitario, soprattutto con la vicenda di Nola e dei malati, lo abbiamo raccontato, curati per terra e con tutto quello che ne è conseguito. Poi vi abbiamo detto, le notizie di cronaca di queste ore ci raccontano anche di un'irruzione di ignoti all'interno degli uffici del direttore sanitario, ora sospeso appunto, dell'ospedale di Nola. Arrivano denunce anche per l'ospedale San Giovanni Bosco. Abbiamo in linea il direttore sanitario Vito Rago. Ricordiamo che quella è una zona che avete un bacino d'utenza, Rago, da 800-900.000 persone, mi sembra aver capito, no? Sì, confermo. Sì, 800-900.000 persone. Sì. E arrivano delle denunce da questo punto di vista, dicono la situazione è drammatica anche là, appunto malati ammassati sulle sedie a rotelle in barella, in fila per ore per avere una visita. Che succede? Allora, succede che il pronto soccorso è sotto stress, perché abbiamo una mole di lavoro da smaltire che è enorme. abbiamo ricoveri sulle barelle che sono tutte funzionanti e tutte in numero congruo per ospitare i pazienti, ma quando superiamo il limite massimo di capienza dobbiamo mettere i pazienti pure sulle sedie a rotelle in attesa di trovare la sistemazione più decorosa, perché è sicuramente meglio assisterli anche per terra, mi permetto di spezzare una lancia a favore dell'ospedale di Nola, piuttosto che mandare il paziente indietro senza assistenza. Che è quello che ha detto anche il suo collega, no, dell'ospedale di Nola, ha detto avevamo una paziente in arresto cardiaco, la devo mandare in un altro ospedale e farla morire o la defibrillo, come dire, sul posto, anche per terra se necessario. Io avrei dato l'identica disposizione. Senta una cosa, la condizione qual è dal punto di vista, come dire, anche delle strutture, del personale che avete e così via? La struttura è in via di definizione, nel senso che stiamo ospitando un'area di cantiere in movimento proprio nei locali del pronto soccorso, che dovrebbe concludere i suoi lavori da qui a 30 giorni per partire col triage, perché noi non siamo dotati di triage a causa della carenza della struttura per fare il triage, quindi siamo in movimento, non abbiamo il pronto soccorso definito in spazi, ecco, non ci vuole definiti e ristretti, abbiamo gli spazi dove ospitare il personale, ma chiaramente facciamo tutto con un massimo impegno, ma non secondo percorsi predefiniti. Non secondo percorsi predefiniti, qua viene riportato dalle pagine locali di Repubblica anche lo sfogo di un medico che dice ci si scandalizza di Nola, ma qui succede la stessa cosa. Allora, su questo articolo mi permetta, mi dia proprio un minuto perché una replica è doverosa. Le dichiarazioni fatte da un fantomatico infermiere o dal fantomatico medico, che io non metto in discussione, possono essere verità, ma nel contenuto sono completamente fuori da ogni logica e da ogni collegamento con la realtà, che i pazienti vengono portati a braccia in sala operatoria. In 15 anni che sto in questo ospedale non l'ho mai visto neanche una volta. Vengono portati in barella al letto operatorio, non scherziamo. Paziente a braccia, che sia la guardia giurata o l'ausiliario a decidere l'ordine di priorità del personale che mi arriva in pronto soccorso, ma è pura follia. Non esiste, dice lei. Ma non esiste proprio, ma non scherziamo. Il medico, l'infermiere decide l'ordine di priorità, come dappertutto, in qualsiasi pronto soccorso degno di questo nome, per favore. La ringrazio. Grazie Vito Rago, direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, e siamo di nuovo in linea con Gianni Zen, che forse abbiamo recuperato con una linea decente. Sono in linea, sì. Ecco, il preside del liceo Brocchi di Bassano del Grappa. Stavamo dicendo, allora, che lei ha chiesto a questo professore di presentarsi e le è arrivata una diffida del sindacato, è così? No, mi è arrivata una lettera nella quale il professore, citando fonti di tipo sindacale, e diceva che lui non si presentava perché durante le vacanze la scuola in qualche modo lui si sente libero dall'impegno scolastico. E non solo, ma citando anche la possibilità di un'azione legale con un avvocato, la cosa mi ha sconcertato, come puoi immaginare. Senta, Ghiri, che cosa risponde? Ci scrive un'ascoltatrice, non si devono diportare gli insegnanti solo su base volontaria. Che cosa risponde? Il discorso è che questo è un vulnus che va risolto, nel senso che la continuità didattica deve essere riaffermata in funzione degli studenti e non può essere sciolta per interessi individuali. Perché se uno ritorna il 23 e poi sta a casa il 9 di gennaio, lei capisce che non sta né in cielo né in terra questa cosa, per cui non deve essere permessa questa possibilità di ritornare e di sospendere l'aspettativa, fregando la propria collega, ma soprattutto creando una situazione di disagio alle studenti e alle famiglie. Ecco. Poi ovviamente i diritti dei lavoratori sono sacrosanti, in questo caso è una legge 104, però vanno disciplinate perché i diritti dei lavoratori non abbiano un sopravvento sui diritti degli studenti e delle famiglie, oltre che dei propri colleghi, perché è chiaro che io adesso una volta interrotto il contratto devo richiamare secondo graduatoria e chi verrà verrà, chi toccherà toccherà. E quindi gli studenti avranno un nuovo insegnante con il rischio ovviamente... che si arrivi a situazioni paradossali come quella del Giulio Cesare, della scuola Giulio Cesare di Mestre, un elementare, 7 supplenti in 3 mesi per lo stesso posto, che siamo veramente alla follia più completa, no? Follia, ma sono casi che si ripetono soprattutto per classi di concorso dove non si trova. Lei pensi, non so, matematica, di informatica, per quanto riguarda il non si trovano insegnanti, per cui abbiamo avuto l'emissione del ruolo di 100.000 docenti, ma indipendentemente dalle esigenze delle classi di concorso espresse dalle scuole. È stata una grande sanatoria, invece si parla in modo graduale, l'ho detto anche al ministro, il ministro D'accordo, dice che deve essere fatto in modo graduale e non in un anno, in pochi mesi, perché poi non si è eliminato il precariato. E si sono mantenute queste disfunzioni che sono inconcepibili in una realtà come il mondo della scuola. Allora, io la ringrazio, grazie a Gianni Zen, preside del liceo di Bassano del Grappa. Vi ripeto, se avete storie di questo genere, vedo che molti ascoltatori, tra insegnanti, dirigenti scolastici e semplicemente genitori, ci scrivono su questo tema. Effetto giorno @radio24.it, se volete segnalarci qualche situazione particolare, sicuramente ci torneremo, anche perché evidentemente queste vacanze di Natale da questo punto di vista sono state dirimenti, visti i tanti casi che ci sono stati. Torniamo però per un attimo sul tema degli ospedali, perché in questo momento, dal punto di vista soprattutto della raccolta del sangue, è il Lazio la regione con le maggiori carenze. Il direttore del Centro Regionale Sangue del Lazio, Stefania Vaglio, al microfono di Adriana Fracchia. Individuare una singola carenza non è semplice, verosimilmente può essere ricondotta o all'epidemia influenzale che colpisce tutti i soggetti sani e quindi anche i soggetti potenzialmente donatori. E in alcune regioni, in particolare, sicuramente anche il maltempo sta creando dei grossi problemi. Ci sono regioni dove il problema della neve, quindi le condizioni di maltempo molto importanti, impedisce ai donatori di recarsi ai servizi trasfusionali. Per cui in alcune di queste regioni, che storicamente non hanno mai avuto bisogno di aiuto da parte di altre regioni con produzione eccedentaria, hanno dovuto invece chiedere aiuto alterando gli equilibri del sistema, che è un sistema che altrimenti funziona perfettamente. Il nostro appello è: senza creare allarmismo, senza che il messaggio diventi attenzione perché la gente muore senza sangue, perché non è questo il messaggio, per cortesia, appena state bene, nel più breve tempo possibile, cercate di recarvi a donare in maniera da consentire al sistema anche di evadere le richieste cosiddette ordinarie. Il sistema adesso garantisce la copertura delle urgenze. Quello che sta entrando in sofferenza è invece il sistema degli interventi chirurgici programmati. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia e lo riprendiamo dalla Lombardia. Siamo stati ieri, l'altro ieri, in Friuli Venezia Giulia, siamo stati ieri in Veneto per parlare di immigrazione e degli incontri e dei dialoghi tra il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, con le varie regioni. Oggi andiamo in Lombardia con la nostra Valentina Furlanetto, che sta facendo un giro nei luoghi nei quali vengono accolti o non accolti i migranti, i profughi e i richiedenti asilo. Parleremo con lei, ci faremo raccontare un po' di cose tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: all'Italia, il ministro Calenda contro l'azienda, è stata gestita male, dice, le colpe non ricadano sui lavoratori, i sindacati chiedono un incontro subito con l'esecutivo. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan parla in questi minuti sulle banche: sbagliato e dannoso il discredito del sistema, la fiducia è essenziale, è facile distruggerla, difficile ricostruirla. Il picco di influenza, il freddo e la paura della meningite mettono in crisi ospedali e presidi medici, carenza di sangue, molti pronto soccorso presi d'assalto. C'è stato il rogo in un capannone occupato da migranti a Sesto Fiorentino, c'è stata una vittima, ora si cerca di trovare posto alle 80 persone che ci vivevano dentro la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, eccoci di nuovo per l'ultima parte della trasmissione. Iniziamo occupandoci di immigrazione, un tema del quale continuiamo ad occuparci in queste ore, in queste settimane, del quale ci siamo occupati praticamente per tutto l'anno e proseguiamo. Lo farà anche naturalmente Radio 24, abbiamo in vista due reportage nei nostri fine settimana e continuiamo a seguire tutto quanto. Ci siamo occupati nelle scorse ore del Friuli Venezia Giulia, ci siamo occupati del Veneto, oggi andiamo in Lombardia. Lo facciamo con la nostra Valentina Furlanetto, che questa mattina sta facendo un giro in vari luoghi strategici da questo punto di vista. Como, dove i migranti si ammassano tendenzialmente nel tentativo di passare il confine e andare in Svizzera, di poter prendere un treno e andare in Svizzera. Bresso, dall'altra parte, l'Hub nei dintorni di Milano, dove appunto si stanno raccogliendo i migranti, profughi e richiedenti asilo. Andiamo in ordine cronologico, Valentina, e buongiorno. E iniziamo da dove sei stata questa mattina, ossia Como, qual è la situazione? Allora, ciao Simone, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Sì, stamattina molto presto sono stata a Como, al centro di Via Regina, un centro governativo creato 4 mesi fa per svuotare, lo ricorderete, la stazione dei treni di Como, che era diventata un campo spontaneo e non dignitoso, chiaramente, perché dormivano all'aperto le persone. Adesso è un campo governativo, un centro gestito dalla Croce Rossa e dalla Caritas. Sono diminuite in questo momento le presenze rispetto a settembre, sono circa 100 le persone rispetto ai 300 posti disponibili, dormono in container. Ho visto anche dei ragazzi, dei minori di circa 15-16 anni. I migranti però come non stanno soltanto all'interno del campo, ma moltissimi vengono ogni notte raccolti dai volontari della Caritas di Como Senza Frontiere, un'associazione che in media appunto ne raccoglie circa una cinquantina per notte, perché in molti casi, ci spiegava il responsabile della Caritas Roberto Bernasconi, i migranti non entrano nel centro perché hanno paura di farsi identificare, e molti ormai si affidano anche ai passeur, che chiedono circa 250 euro per poi portarli in Svizzera. Alcune donne, ci spiegava Bernasconi, si prostituiscono anche per trovare i soldi per poter passare in Svizzera, altri invece trovano rifugio nella parrocchia di Reddio, e questo sta facendo un grande lavoro Don Giusto della Valle, il parrocchiano di Reddio. Tra l'altro il problema è quello del freddo in questo momento a Como. Stamattina era freddissimo, c'era un forte vento e un grado, e giorni fa un ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Valduce, un migrante di origine somala, per ipotermia. I casi ovviamente sono anche di disperazione. A novembre un ragazzo di 17 anni all'interno del centro ha cercato di togliersi la vita, e queste sono le situazioni ovviamente più disperate. A Como, come dicevi, è un punto nevralgico per la Lombardia, che comunque è la regione che ospita il 13% dei migranti, la percentuale più alta in Italia, e il tentativo è quello di passare la frontiera, ma non riuscendoci si accumulano sempre più in questa città di frontiera con la Svizzera. Questo il quadro da Como, dunque, Valentina. Adesso sei a Bresso. E a Bresso com'è invece la situazione? Allora, Bresso è un hub, come dicevi, governativo, gestito dalla Croce Rossa italiana. Qui vengono smistate le persone che arrivano da varie parti d'Italia, tra cui anche la Sicilia. Sono 450 gli ospiti in questo momento, quindi non siamo in una situazione di emergenza o di sovraffollamento. Sono per lo più uomini, quasi tutti dell'Africa subsahariana. Eccezionalmente, ci spiegavano i responsabili della Croce Rossa, qui sono ospitate delle famiglie, ma per lo più sono uomini. I tempi di attesa sono nella media italiana dai 6 ai 12 mesi, tempi di attesa per avere i documenti, ma chiaramente sono tempi che mandano in frustrazione le persone che sono qui ospitate. E quest'estate, lo ricorderete, c'è stata anche una protesta davanti al centro, fuori dal centro, davanti alla strada che collega Bresso a Sesto San Giovanni, per le lunghe attese che sono davvero il punto nevralgico delle proteste. Abbiamo visto anche a Cona, nel Veneziano, una settimana fa per la morte della ragazza, ma poi i nigeriani presenti hanno protestato 2 giorni dopo per i tempi di attesa. In questi tempi di attesa, in questo centro di Bresso, si fa anche formazione, e ho qui il responsabile della formazione della Croce Rossa, Marco Pinto, al quale chiederei subito quali sono i corsi sui quali si concentrano e che tipo di risposta hanno da parte dei migranti. Sì, buongiorno. Dunque, i corsi sono corsi principalmente di lingua italiana, ma anche corsi di formazione professionale e corsi di educazione civica, perché l'obiettivo è fornirgli gli strumenti utili per poter aiutarli a, insomma, triangolarsi all'interno di un mondo che può essere ostico, difficile, soprattutto in una burocrazia che è molto tentacolare. Marco Pinto mi spiegava poi che una delle problematiche più importanti che loro trovano, loro funzionari della Croce Rossa all'interno del centro, è quello proprio di cercare di spiegare la burocrazia, alla quale i passi burocratici istituzionali che i migranti devono affrontare per avere i documenti. E ancora una volta il centro della problematica sembra essere quella dei tempi, no? I tempi di attesa per vedere respinta o accolta la domanda di asilo, che dicevamo in Italia sono tra i 6 e i 12 mesi e che davvero diventano, certo, un periodo di limbo per i migranti. E che è effettivamente uno dei grandi problemi. Grazie a Valentina Furlanetto, che continuerà a seguire queste vicende e che si occuperà anche dei reportage che poi andranno in onda. A chiudere, ritorniamo in Veneto perché ce ne siamo occupati spesso. È stata approvata la famosa legge della Regione Veneto che prevede sanzioni fino a 3.600 euro per chi disturba l'attività della caccia. Sergio Berlato di Fratelli d'Italia è il proponente di questa legge. Berlato, ma non sarà un po' troppo 3.600 euro? Beh, innanzitutto questa è una legge che vuole comminare sanzioni amministrative a chi vuole impedire l'esercizio della caccia e della pesca che viene esercitato nel rispetto della legge. È una cosa ben diversa. Viene garantito il diritto di chiunque non condivida queste attività illecite di poter esercitare iniziative come manifestazioni e quant'altro, purché nel rispetto della legge. Questo viene garantito. Diversa cosa è quando dei gruppi organizzati di estremisti animalisti aggrediscono non solo verbalmente delle persone mentre esercitano delle attività lecite, dopo aver pagato anche corpose tasse di concessione. Cioè, in sostanza è questa, in sostanza è questo, mi faccia capire Berlato, se gli animalisti si presentano in cento con uno striscione mentre la gente sta là che va a caccia e fanno rumore, che ne so, per far scappare gli uccelli, vengono multati oppure no? Assolutamente no, perché viene chiaramente previsto in legge che chi esercita iniziative tipo manifestazioni e quant'altro nel rispetto della legge lo possono continuare a fare, perché il diritto di manifestare è garantito dalle norme vigenti. Questa norma invece si riferisce solamente a quei criminali, e purtroppo ne abbiamo tanti esempi riportati anche in Facebook, loro riportano i loro filmati di aggressione, criminali che approfittano magari del fatto che ci siano delle persone, pescatori o cacciatori, spesso anziani, isolati, li aggrediscono non solo verbalmente, li spaccano le canne da pesca, buttano gli strumenti in acqua e, come è successo anche la settimana scorsa a Mantova, procedono a prendere le aggressioni. Una persona è stata mandata all'ospedale, corre il rischio di rimanere in sedia a rotelle proprio per l'aggressione di questi criminali. Sì, l'abbiamo raccontato, abbiamo anche ospitato la persona. Sì, la legge recita: chiunque con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbato o interrotta la regolare attività di caccia o pesca. Beh, è un po' vago però così, no Berlato? Cioè... No, guardi il primo comma, tutto è legato al fatto che chiunque voglia intenzionalmente impedire, anche attraverso atti di ostruzionismo, ma questo viene dopo. L'obiettivo della legge è questo, cioè colpire chiunque voglia impedire l'esercizio di queste attività lecite. Come le faccio un paragone velocemente. Chi le fa le multe, Berlato? Allora, l'accertamento di questi atti criminali viene fatto solamente dagli organi di polizia. Quindi sono gli organi di polizia che dovranno accertare. Ma anche locale, o organi di polizia, inteso tutti polizia e carabinieri? Che hanno questa funzione di organi proprio di polizia, in particolar modo carabinieri e polizia, questo è quanto avviene. No? Allora, come se lei, pagando il biglietto, volesse andare a vedere un cinema. se lei dopo aver pagato il biglietto va a vedere il film e se gli si presenta davanti... Chiede un ascoltatore, brutalmente, chiede un ascoltatore, ma se faccio rumore vale? Assolutamente, lei può continuare a fare rumore finché vuole. La legge parla esplicitamente di chi intenzionalmente vuole impedire... Okay. Che venga esercitata un'attività come caccia e pesca, che sono le... Quindi se mi metto davanti ad una doppietta, se mi metto davanti a una doppietta, che comunque non è una cosa molto furba, mi becco la multa. No, se lei vuole impedire a uno che sta esercitando la caccia o la pesca, glielo vuole impedire, e questo è un diritto che deve essere garantito, sì, a chi esercita queste attività lecite, così come è garantito il diritto di manifestare, sì, nel rispetto della legge, sì, una contrarietà, un'attività, dobbiamo garantire a chi ha pagato tasse di concessione governativa, regionale e quant'altro, il diritto di poter cacciare, di cacciare e pescare. Allora, Berlato, nel rispetto della legge. Allora, Berlato, io la ringrazio. Qua devo chiudere, devo dire che non ho ancora capito esattamente il discrimine, e vedo da quello che mi scrivono anche gli ascoltatori. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.